mettere, poi mi dare la risposta. Già è salito il segnale sia a ricezione che a trasmissione. Perché è salito, sicuramente anche la sta è salita. Scappa. E comunque, secondo il mio parere, quella lì, per come ho visto la situazione, secondo il mio parere, chi c'ha chi chiede a voce. Cioè, se va a apparecchiatura sotto, un Sant'Antonio mio. Storia, se tu c'hai un bambino da curare, quella che va al giro della spalla, che ci porta fino a 5 kg, quindi ammettetelo, te lo fa dondolare il bambino. Possibilità di montare un'antenna come questa, per cercare di conoscere le calerita, tranquillo che c'è le calerita, e qua sta arrivando 9.15, non picchia 9.20. Sei molto ma molto distante da me, hai un'antenna che non è il massimo, però c'è una zona favolosa tu, e bisogna sfruttarla, bisogna sfruttarla. Vai, Carlo. Stavo dicendo, Antonio, forse prima ci siamo anche un po' sovrammodulati, che lui ha detto che c'è un bambino da cullare, e questa antenna che io ho supporta sino a 5 kW di potenza, quindi ha voglia che glielo culla il bambino ad Antonio, no? Non lo so, sì, ma io l'ho fatto la prova. Io gli ho già dato la prima batosta a questa antenna, o Carlo, e non gliel'ho data a 27, gliel'ho data in 10 metri. In 10 metri con un accornatore inserito, circa 1,2 kW, ma manco il pelo le cuoca, ma manco il pelo. Opla, quanto sei pompato adesso? Di curiosità. Antonio, ti dico la verità, sono con 50 watt, cioè 430, avevo regolato 50 watt, ed è 50 watt di modulazione. Ti passa a Carlo la verità, Sento a Carlo come se tu ci fossi per niente la verità, Però te l'ho chiesto non per altro. Se non mi passa a Carlo da te, allora che deve smontare tutto. Carlo da te mi passa da Roberto, mi passa ma anche da altre parti sicuramente con 4 watt, ma stai scherzando, è attaccato a te. Anche Carlo ti passa qua, ma proprio ti annienta, vi annienta a tutti, annienta anche a Roberto, a tutti passa qua Carlo. C'è una posizione ottima, veramente ottima, per quel tipo di antenna, Antonio, non ci sono dati, non ci sono dati. Certo che mi passa, ci mancherebbe altro, ma mi deve passare, perché se non mi passa vuol dire che l'antenna non sta funzionando. Qua Carlo arriva più di 9,40, cazzo, una cosa impressionante, cioè passa a tutti, passa. Ma lo sto dicendo, a tutti passa, da me non c'è nulla che si salva, potete attaccare quello che vi piace, lui con 4 watt, 10 watt, quanti ne ha, arriva 9 più 50, Roberto 9 più 40, Claudio Di Mura 9 più 40, fatevi conto a voi, tu sei 9 più 30, Antonio. Cosa allucinante, ma c'è una posizione fantastica, e poi con un assetto tardi sotto il culo, già lo credo. Cazzo, tu sto dicendo, ti crepa te, cazzo, ti ho sopra poco fa, ti giuro, guarda, sono rimasto secco, sono rimasto, cazzo, io tu, boh, non è possibile, guarda, una cosa del genere. Eppure così, cazzo. Da, sovrammodulato come niente, cazzo. Ma chiaro lì, come se tu non ci fossi sotto. Il discorso è quello. Ma ti sei dimenticato che io non abito più attaccato a te? Se abitavo attaccato a te non c'erano ragioni, ma ero solo lontano a te, ma io so che attaccato no, io te non ti vedo. Lui a te ti vede, è normale. È normale che sia così, però dove passa a tutti, è chiaro che passa anche a me. Ma io sono contento per Carlo, perché c'ha veramente un'ottima posizione, un'ottima antenna. E quindi va bene così anche a me. Non sono preoccupato io, Assolutamente. Vai Carlo, riprendi. Poi a me l'antenna me l'ha passata Claudio, non è che era già collaudata. Io non ho, come me l'ha data, l'ho piazzata. e non ho toccato niente, niente, niente. Quando guardo il ROS si muove appena appena, sia a inizio della banda sia dopo la banda. Se poi vado oltre i 27,450, lo stesso si muove di mezzo, ma neanche pure. Quindi tutte queste cose Claudio me le aveva già dette prima, quindi per me non è una sorpresa, e rispetto a prima vado molto meglio, quindi sono abbastanza contento e soddisfatto. Tu Antonio, immaginati che quell'antenna io gliel'ho data già assemblata, lui ha messo solo gli sub, gliel'ho tarata, l'ho messo a terra, gliel'ho data già tarata, già pronta, fatti il conto. Figurati se dai un su 80. Ma quello voglio che sarebbe, guarda, un mio sogno, guarda, che tu di più con il suo 80 a lui e glielo dai, in modo che esco con il suo 80, la verità, guarda, posso uscire io, che sono mancato purtroppo con il suo 80, almeno lui, la verità, fammi questo, cosa ti posso dire? Un regalo, diciamo così, un regalo per Natale, un 70 a Carlo, così esce Carlo con 70, a posto mio. Adesso vediamo, a Carlo glielo già detto cosa deve fare lui lì, piano piano vedrai che farà tutto quello che ce l'ha a fare, sicuramente, senza un bel dubbio. Vediamo, avanti Arturo. Gaffa, già, qua arriva un bel forte Carlo, ma forte per me. Ebbene, ma è normale, si va in antenna e così me. Poi lui già arrivava fortissimo con quel di Polo a casa. Immaginiamo di conchista, capito? Perché me lo ricordo, ma lui già, io ho capito dove abita, e già lì è in alto, perché mi è capitato anche a me di salire a aggregare che bombola sopra l'ultimo piano, e si vede tutto Sassari, si vede, già in alto, più il palazzo è alto, più chi c'ha antenna in mano, immaginiamo di cos'è arrogante dai chimi. Guarda, io con questa ringogheo, se me lo bussi in chibi, sono convinto che è uscito fortissimo. No, vedo che abita Carlo. Scappa, cioè, senza andare a piazzare chissà cosa, sarei uscito un bel forte lì, perché lì è alto, sono palazzi alti, capolo, regateci voi, e poi la zona, se tu guardi a livello, è proprio alta la zona, è già un grido che ci fosse. Io già lo so che è così, già lo so, non è un problema, lo so, infatti per me è quello che ci ha segnato più alto di tutti, le Sassari, vi difendete tutti bene, però per dove sono io e Carlo sa dove sono, ho un ottimo segnale, perché non lo vedo a lui, capito? Assolutamente. Vabbè, comunque, meglio così, dai, va bene, va bene. Bene ragazzi, io vi saluto, che vado a mangiare, perché io non ho ancora mangiato, non era pronto, c'era roba al forno, quindi adesso vado a mangiare. Se ci siete dopo, altrimenti a domani. Ciao Carlo, ciao Antonio, ciao Antonella e chiunque fosse in ascolto. Ciao ciao, riprendi Carlo. Ciao Claudio, buona carica. E niente, Antonello, se sei in ascolto, guarda che su WhatsApp ti ho mandato le foto dell'antenna, come l'ho piazzata, stamattina l'ho fatta vedere a Roberto pure, guardale se hai tempo. Io adesso dopo guardo, siccome il telefonino non ce l'ho qua, il camerano ha detto, il discorso è quello, sai che è sequestrato, purtroppo, no, in realtà c'era mia moglie, quindi a un certo punto, adesso dopo guardo, non c'è problema. famiglia. La cosa bella è che è facile da piazzare perché non ha radiali, quindi anche se hai poco spazio è pure leggera da sollevare. Io l'ho piazzata in basso col tubo telescopico, l'ho stretta bene, ho collegato lo spinotto, l'ho isolato bene, ho isolato tutto e poi pian piano l'ho fatta salire sin dove avevo cavo, dove ce l'ho fatta con le braccia. Io arrivo a 2,65 m con le braccia sollevate in punta di piedi e quindi l'ho portata a 2,65 dal tettuccio, però invece dalla base del tetto è più di 4 metri e mezzo almeno, capito? Pensa tu, dopo che sa zona è nasso, io credo che ci fosse già, mi per tutto Sassari da lì, perché io ho alcuni clienti da lì, quando vado all'ultimo piano vedo mentalmente rumore, si vede. Quindi a un certo punto sto uoco e là e ci metto l'altra, capito? Quella a canona pesca, più che altro. Adesso vediamo un po'. Ore, ma quante ne hai tu di antenne? Tre? E tre ne ho, infatti. Se guardi ne ho tre. Se scendi dove arrivi a chiami, devi... sotto a casa, le vedi tutte e tre. Ho visto che hai quella con i radiali dove ne manca uno, poi c'è forse una VHF e una di quelle tipo log periodica, qualcosa del genere, forse è una VHF quella. No, c'è una direttiva, c'è, che fa V e U, e infatti quella funziona. Poi ho fatto due buchi appena per la più giù e ci ho installato quasi un metro e mezzo la VU, hai capito? E infatti è stato quello, cioè 30 anni più che altro, un, due, tre sono pesantezze, la direttiva, la verticale della 27 e la VU, basta. Io c'ho solo questa della 27, no, non ne ho altre, capito, perché non ho apparecchiature e adesso mi devono dare un piccolo ricevitore di quelli portatili, al limite o metto qualche discone, qualcosa così, e vedo un po', dai, magari però gli faccio un'altra discesa con, anche con un RG58, qualcosa del genere, e se no, no non mi passano poi i cavi sul foro che ho nella parete, capito? E beh, non credo. Ah, ma anche io il disco è rimasto a casa di babbo. Funzionava, tu? Ah, andava. Io adesso vedo, se trovo qualcosa per fare un po' di anche di radioascolto, la metto, magari o gli cambio posizione, perché sul tetto, visto che c'è un attacco di una vecchia parabola su una parete, su un cordolo che c'è, però la parabola non c'è più, ed è rimasto l'attacco, capito? Quindi riesco ad arrivarci dal piano di calpestio e magari metto qualcosa lì, magari neanche di poco visibile, capito? Così non dà nemmeno nell'occhio. Cappa. Io non ne pongo, no? Ma fa questo e boh. Se devo cambiare mi metto la Smart Tech. Me ne basta una antenna, no, non ne voglio, tante antenne non le voglio. Guarda, se metti questa, se ti interessa solo la 27 così eccetera, va benissimo, anche se vai un po' pochettino oltre, avanti agli 11 e dopo già va bene. E anche se pompi questa 5 kW regge, c'è scritto così nell'istruzione, cioè il libretto, capito? 5 kW sono un sacco di watt. Se ci sono piccioni o cornacchie le fa arrosto. Vabbè, l'antenna regge così, però chi ce l'ha un ignare? Qualche radioamatore ce l'ha, un amplificatore così grosso, oltre che vi può pure un compadore. Infatti, no, ma anche se ci spari, che ne so, 50, eccetera, ha voglia che li regge, ha voglia, già li regge bene, poi è pratica perché senza radiali, e se la metti in basso non ha necessità di grande altezza, perché Claudio ce l'aveva in basso, messa a 1,5 metri, mi sa, mi aveva detto, e andava bene. Mettiamo un po' le antenne con radiali, perché tengono sempre a disturbare. Io questa è che non ho il tuo numero, se no ti avrei mandato le foto. Praticamente ci ho attaccate un po' più sotto tutte le antenne della TV, ma non disturba niente. E anche la mia è senza radiale. Ma se non disturba è anche meglio, hai capito? Perché ho fatto anche collegamenti in banda laterale, dove con questa radio mi dà 13 watt in banda laterale, e col televisore acceso abbiamo l'impianto centralizzato, per cui se disturba il mio disturba tutti gli altri. E invece l'ho acceso il televisore e non succede niente, proprio non c'è una minima vibrazione, nulla nell'immagine, quindi non disturba niente. Vabbè, a così pochi watt non lo puoi sapere, bisogna vedere quando attacchi un lineare, quando comincia già a tirare 200 watt, 250 watt. Le cose sono ben diverse. Quello sì, lì bisogna vedere. Basta andarci piano piano, massimo arrivare a una cinquantina e poi vedi come va la cosa. Se va bene con 50 la lasci così. Se poi si può usare, si può andare anche oltre, capito? No, te ne accorgi subito, quando dai 100 watt, te ne accorgi subito se lo fa o non lo fa. Se non lo fa, vuol dire che va bene. Via. Oh, via. E che ore sono? Le 9:20, mi sa che adesso me ne vado dentro, mi vedo qualche film. Domani sono di turno di sera e quindi domani mattina mi alzo con comodo verso le 8:30, le 9. Tu presto esci, Antonio, a lavorare. Figa. Io esco alle 6:30 a casa. E quindi presto, dai. Presto. Io quando c'ho il turno di mattina esco ancora più presto, alle 5 devo essere al lavoro e esco di casa alle 4:25. 5 minuti ci impiega a scendere giù a Predanieta, perché la mattina non c'è traffico. Alle 5:10 sono al lavoro senza correre, andando a 90-100, capito? Ma come non si corrente? Nella 4 corsie vado così, io di più non ci vado, più di 100 non faccio. Ah, nella 4 corsie ho capito. Capa. Eppure, vabbè che ci passo, la guardo, io sono sempre in giro il gioco, non ho sguardata a vedere com'è. Se ti capita lì in via degli astronauti, più o meno da quell'altezza lì, già lo sai dov'è l'autoscuola, che c'è un bar più avanti lì in via degli astronauti, mi da quella zona la vedi bene. Chi non lo conosco, cara, già la riconosco tutti. Che dalla rotatoria si vede, se sei alla rotatoria lì, tra via Luna e Sole, via degli astronauti, via Gramsci, anche lì io la vedo quando passo dalla rotatoria, ho detto, su quanto si vede, cavolo. Perché è bella alta, già un gioco via, e poi un barazzo è alto buro. Sono 6 piani da me, capito? Perché sono 5 piani più la mansarda, capito? Considerato quel tettuccio sono a 6 piani d'altezza. fai la media di 3 metri e mezzo per piano e già sono abbastanza in alto, e poi soprattutto è tutto aperto, non ho palazzi vicino io, capito, sono tutti lontano, gli altri che ho sono anche più in basso, quindi già va bene così. Meno male che non modula nessuno lì vicino, sennò guai. Ho qua vicino, no, il più vicino che ho forse è Roberto, e poi c'è Antonello un po' più giù, Claudio è molto più su, Claudio è su dopo Serraseca, capito? È in alto lui però. Certo, perché prima anni fa succedeva un palazzo e l'altro palazzo, mamma mia, addirittura c'erano anche due CB a latte dolce che avevano un'antenna così, erano vicine, erano, cioè era un casino modulare, dovevano modulare a bassissima potenza, di noi c'è un fumo. Lì è un casino, sì, lì ti devi regolare il guadagno RF, metterlo tutto giù, se no non si capisce più niente quando sono ravvicinate le stazioni radio, capito? No, ma poi come ti sono capituato io da voi, cazzo, ho fatto due massaggi, cazzo, esce un fumo dalle radio, esce, qua in vicinanza, lascia perdere, che è una cosa impressionante. Ma io il più vicino che ho è la stazione, già nel Profeta, arriva 9.60. Ma io gli dico una cosa impressionante a lui. Avanti, pompo. Via, aspetta un secondo. Antone. Sì, me ne sono d'accordo. Quanti orari c'hai? Sì, 1:08. Dai capiti però. Non da altro, i capiti sono. Ti ha caricato, guarda. Sì, infatti. Non è possibile. Una cosa allucinante, questo cazzo di capiti di merda. Di cosa, cazzo, non può essere, cazzo, guarda, a bruciare un apparecchio, ma solo, vabbè. Chi ha? Serata, se vi trattenete, non so se c'è qualcun altro in ascolto, Claudio è andato a cena, Eugenio lo stesso, poi se entrano loro non lo so. Vi saluto e alle prossimine. Via, ciao, a domani. No? Ciao, ci sentiamo. Buonanotte. Buonanotte anche a te. Ciao. Roba di bruscio vai se c'è due antenne vicino, se due CB sono nello stesso palazzo, Sant'Antonio mio. Non so, ma si stacco tutto. Adesso a posto, sono liscio. Ah, va bene, forse è meglio. Via. Comunque sia, all'ospedale, cazzo, c'è un casino, c'è, in PMR, canale 1, a quest'ora. Già me lo posso immaginare. È che stavo a parlare 2 minuti fa, stavo a parlarlo, per verità. Quindi figurati tu. Lo senti? Thank you. la sua cosa questa, eh. Figo che tu. Oh, ya. Ciao, come prima, cazzo, siamo. Vale uguale. Oh, ma tempo qui ci avventuri. Lo so, ma è così. Io mi sento perché mi sento a fondo strada qua. Su canale 1 in PMR. Quindi figurati tu. Ciao, quando c'era cosa nel vicino, a contare papà, era un casino modulare. Quando allora c'avamo tutti, te lo ricordi? Poi c'era Foglia d'Oro. Cazzo, quanto arrivava ma talmente forte, cazzo. Se avrei messo l'antenna sul tetto, tutte e due era stato un casino modulare. Ah, caro. Oh, arrivo subito, che era il telefono con mio fratello, ciao Tino. Ciao agli altri anche, tu arrivo subito a Porta Andrea. Ehi, ciao T. Ciao, sempre Porta Juve, anche se ha perso. Tanto cosa me ne frega, non sono neanche sportivo io. Ma so, so perché ho preso la perlucca, eh. Di giro mi stai prendendo, ma non puoi parlare con muro? Ti vai come d'inferno, puttassa, dammi lo metto in busciacca, sì, sono interista, lo ammetto, ma Edison, vieni fissata, brutto, vieni, sai, come si dice, tifosi quelli proprio, richiedi e letali immediati in busciacca, ma futti di peli o no, io a me mi diverto questa cosa, poi io, questa cosa si degenera, ti manda a fanculo. Tifosi accaniti, accaniti. Sì, spiegattati più che accaniti. Ma no, io l'ho guardata, però vabbè, sono neutrale, non me la preferita. Né se vince, né se perde, non è neanche un articolo da fare chiacchiere, perlomeno per me, forse per gli altri, lui e colui non si discutono. Si conferma, riprende Antonio, arrivo subito. Antonio. Ehi, sono qua, non ti preoccupare. Oh, ho capito se l'ospedale vuole che diavolo è questa roba qua. Diciamo questo cazzo di portatevi strani. Diciamo questo bip tipo coso. Fa il culo. Su canale 1 sono in pratica. Figurati tu. Via. Sta uscendo non saturo ma di più. Guarda che sono liscio io, non sono saturo. Ma è tutto, il via è staccato, È spento. Ehi, poco fa, eri saturo, hai capito? Ah, poco fa sì, vabbè, è ok, ha lanciato tutto. E comunque sto ancora aspettando quelle valvole io, che volevo provare. Vabbè, non sai, mi ha scritto Benito ieri, sta aspettando lui il lineare, e a un certo punto e tu qua devo andare da quell'imbecille, e detto il lineare, e poi ho detto proprio fa meglio, addirittura cazzo sono anche un coglione girato, l'ho pagato io il lineare, quindi a un certo punto devo anche un segnale gira. Allora, Antone, sento molti frusci, non so se è una ventola attaccata, ma molte volte la radio è incomprensibile. Sento troppo rumore di fondo. Adesso va bene. Dipende. Mi sta dicendo che ti ha telefonato Benito e voleva allineare, ma il suo? Allora, lineare in pratica sarebbe il suo, hai capito? Numerato 1, io ho comprato un uovo e hai capito? Gelato, lui ha usato a casa sua, l'ha bruciato, dopodiché in pratica io l'ho portato. Sono questi da ospedale, visto vai, sentito vai, quindi a un certo punto vabbè, comunque sia adesso me la devo dare mio, vabbè, mio cognato me la devo dare come, così come era, come gli ho dato io, il discorso è questo, tutto lì di quelli lì, io l'ho pigliato nuovo, poi l'ha bruciato e tu già te lo ricordi, quindi a un certo punto quindi cosa devo fare? Basta, lo faccio ritornare e poi lui si angela a un certo punto, che il grande è che è bruciato più che altro, tutto lì. Allora, io vabbè, la storia non la so, quindi non posso dirti niente, mi ricordavo che ne avevi uno suo e che te l'aveva portato a aggiustare, poi se l'hai aggiustato bene, se no ciccio, non lo so, questo lo ignoro. Io ti ho chiesto, a me personalmente, mi avevi promesso le valvole, ce le hai ancora? Sì che ce le hai ancora. Ti è conservato, non le dà nessuno, e quelle le hai promesse a me. Sì, ce le ho. Ce l'ho con la quale valvole, grazie a Dio. Io messo una parte, te l'ho detto anche. Quello che ti dico è, non è che ti dico palle, il discorso è quello. Le valvole ce le ho, sono le valvole in pratica della Buonanima di Pacchisio. Quindi figurati tu. Sono originali. Già lo so che erano i battiti, già lo so. Cosa ti volevo dire? L'hai trovato lo smitter del Midland? Sì, ma devo trovare anche il pezzo di sopra, là. Diciamo. Così. Tu è tutto, in te. Girante, cazzo. L'ospedale, cazzo. Che frequenza è? Secondo te cosa che frequenza è? 443 075 075, canale 1 PMR, cioè LPD, stavo dicendo cazzate poco fa, LPD, canale 1, quindi figurati tu. No, è 446 allora, 071. No, quello è PMR, 443 075. Mi senti? Aspetta, intanto schiaccia qualcuno. Io, vabbè, non c'ho di... non me ne frega niente a me l'ingresso, però sennò è così, e torno aperto col Covid è un casino, siamo torno come prima, tale uguale. Da pronto soccorso, salgo in pratica primo piano, secondo piano, terzo piano, tutti insieme, e in cosa sono? In LPD. Com'è il canale? Non si dice, aspetta. Il canale in pratica è canale 1 LPD 443 075. Ma se parlo io non mi senti, guarda Antonè, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Non ti sento per niente, sento solo nessuno, sento solo metà. Lo senti? Va. Quindi, figurati tu. Sono sento e basta. Cioè di una puntata di figurati tu, a un certo punto cosa sento? Aspetta un attimino, se riesco a... Vediamo se mi ascolti ora. Roba, 433, 075, là, prova un po'. Vediamo se blocchi il coso, in diretta. Non ti sento quindi, a un certo punto. E sono con la direttiva, figo da te tu. No, non hai sentito? Nulla. Adesso sì. Certo che ti sento adesso. Ah, visto, hai imballato. Mi senti Bombo? Mi senti Bombo lì? Meglia. Vediamo un po', Tino ci sei. Cacco, se ci sono. No, sto provando la frequenza lì, ma solo Antonio mi sente. Ma quello ti sento, boh, c'ho l'antenna. Non so dove dirti. Gli stavo schiaffando 50 watt, non è che gli stavo schiaffando 5 watt. Ho capito, vabbè. Non è antenna, aspetta, guarda, ti posso fare un'altra... Aspetta un attimino, mi hai fatto venire un'idea, aspetta. Sì, adesso sono qua, aspetta che mi avevo buttato giù un botto, la cuffietta. Aug! Ma sono degli agrumi tanto. No, erano tra facendo una prova. Questo dovrebbe essere la frequenza del posto su questo, questa qui, hai capito, canale 1, perché il canale 4 in pratica è quello del vaccino, hai capito? Quindi a quest'ora, sentendo quello che ho ascoltato io, secondo me dovrebbe essere il pronto soccorso che parla con i casi, cioè con i casi di sopra, diciamo. Aspetta Antone, guardate se mi sentite ora, sto parlando con l'altro, Ma prova, io no. Non arrivo. Prova tu Anto. Se arrivi, ma penso di sì. Anto ci sei. Boh, hai fare mi ha dato. Fai 433 075, è la frequenza applicata LPD, canale 1. Poi vabbè, ci sono gli altri che sono sul canale 4, adesso non mi ricordo la frequenza, la verità, comunque sia, prova perché penso di ascoltarti. Vabbè, vuol dire che niente, non arrivo. Ragazzi, vi devo salutare, dai, che devo fare carica e devo aiutare. Ci si riascolta, statemi bene, tante cose belle, ciao. Ciao, ciao, a dopo, dai, ok, non c'è problema. Ciao Tino, alla prossima, ciao ciao. Ciao DJ, sentiamo la prossima. Tanto qua fai un passaggio a 446075 se arrivi. Hai detto adesso con mezzo geco. Tu, cazzo di cazzo vuoi? 443075, infatti che la frequenza è quella. Dovrebbe essere quella dell'ospedale. Senz'altro, del pronto soccorso, 446 no 443. Lo sto dicendo 443, cazzo, 446, cazzo, è il canale 7, PMR, però quello che stavo ascoltando poco fa io era il 443, in pratica LPD, canale 1, hai capito? C'è ancora in pratica hanno rinnovato il canale 1 del pronto soccorso, capito? Tutto lì. E quello stavo sentendo poco fa, hai capito? Tutto lì, non per altro. Non è che mi sono diventato, la verità. Ehi, Bento. Quando devi mandare? 446075, fa un... chiamali. Io coglio, lo sento. A te sì, ma tu non arriva qua. Mandamela via WhatsApp, raga, non voglio comprare nulla. A me se è giusta. L'ho mandata. Aspetta che non posso. Queste cose si vedete infatti qua già dopo. Guarda che in pratica a quello di vivo ci sono ancora i vaccini, no? E tu mettono, vabbè, impossibile. Beh, già lo credo, beh, a un certo punto. Quindi in pratica sono l'ospedale, più che altro, capito? Da pronto soccorso su, come si faceva prima, pare uguale. Io sento questa, non so, adesso mi ricordo, 087, portiamo un cappuccino, portiamo una pasta, portiamo un caffè. E guarda che stavo uscendo, Io non ti sento, Andrew. Aspetta, allora cosa? Mi senti? Questo sei tu. Ha voglia. Ci mancherebbe. Tu ci senti a noi? No, questo c'è Antonio. Se a noi ci sente. Guarda che faccio la prova adesso. Cazzo, ma non mi sentite? No. Io sono ai 4 4 46 075. Non si vede niente, forse ho sbagliato io. Prova adesso, Lu. Aspetta che ho sbagliato, torna. Cazzo. Ma come cazzo si accende la luce che c'è un coso? Ah, poi mi metto gli occhiali. 4 4 6 0 81.25. Il discorso è quello. Canone 7 PMR. Hai capito? Quindi, impostate. Com'era? 4 4 4 6 0 81.25.